Capitolo 1 di Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Traduzione di Teodorico Pietrocola. Capitolo 1. Giù nella conigliera. Alice cominciava a sentirsi mortalmente stanca di sedere sul poggio, accanto a sua sorella, senza far nulla. Una o due volte aveva gittato lo sguardo sul libro che leggeva sua sorella, ma non c'erano immagini né dialoghi. «E a che serve un libro?» pensò Alice, «senza immagini e dialoghi?» E andava fantasticando col suo cervello, come meglio poteva, perché lo stellone l'aveva resa sonnacchiosa e grullina. Se il piacere di fare una ghirlanda di margherite valesse la noia di levarsi su e cogliere i fiori, quando ecco un coniglio bianco con gli occhi di rubino, le passò da vicino. Davvero non c'era troppo da meravigliarsi di ciò, né Alice pensò che fosse cosa troppo stravagante di sentire parlare il coniglio, il quale diceva fra sé: «Oimè, oimè, ho fatto tardi!» Quando se lo rammentò in seguito, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma allora le sembrò una cosa assai naturale. Ma quando il coniglio trasse un oriolo dal taschino del panciotto e vi affissò gli occhi e scappò via, Alice saltò in piedi perché le era venuto in mente che ella non aveva mai veduto un coniglio col panciotto e il suo rispettivo taschino, né con un oriolo da starvici dentro, e divorata dalla curiosità, traversò il campo, correndogli appresso, e giunse proprio a tempo di vederlo slanciarsi in una spaziosa conigliera di sotto la siepe. In un altro istante, giù Alice scivolò, correndogli appresso, senza punto riflettere come mai avrebbe fatto per riuscirne fuori. La buca della conigliera sfilava diritto come una galleria di tunnel, e poi si inabissava tanto rapidamente che Alice non ebbe un solo istante per considerare se avesse potuto fermarsi, poiché si sentiva cader giù rotoloni in qualche precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo. Una delle due: o il pozzo era arciprofondo, o ella vi ruzzolava assai adagino, poiché ebbe tempo, mentre cadeva, di guardare tutto intorno e stupiva pensando a ciò che le avverrebbe poi. Prima di tutto aguzzò la vista e cercò di vedere nel fondo per scoprire ciò che le accaderebbe, ma gli era buio affatto, non ci si vedeva punto. Indi guardò le pareti del pozzo e osservò che erano ricoperte di credenze e di scaffali da libri. Qua e là vide mappe e quadri che pendevano da chiodi. Andando giù, prese di volo un vasettino che aveva un cartello, lo lesse: «Conserva d'arance», ma, oimè, era vuoto e restò delusa. Non volle lasciar cadere il vasettino per non ammazzare chi era in fondo, e andando sempre giù lo depose in un'altra credenza. «Bene», pensò Alice, «dopo una caduta tale mi parrà proprio niente il ruzzolare per le scale. A casa poi, come mi crederanno coraggiosa? D'ora innanzi, ancorché cadessi dal tetto, non ne farei caso, e probabilmente dicea la verità». «E giù, e giù, e giù! Finirà mai quella caduta? Chissà quante miglia ho percorsa a quest'ora», esclamò. «Davvero io sto per toccare il centro della terra. Vediamo. Suppongo che saranno 400 miglia di profondità». Come vedete, Alice aveva imparate molte di tali cose nelle sue lezioni, ma non era quella la migliore occasione per fare sfoggio della sua erudizione, poiché non c'era niuno che l'ascoltasse. Ciò non di meno era bene di ripassarle a mente. «Sì, la sarà questa la vera distanza. Ho pressa poco, ma vorrei sapere a quale grado di latitudine o di longitudine io sia giunta». Alice non sapeva mica che fosse longitudine o latitudine, ma pensò che erano belle parolone a dire, e le disse. Passò qualche istante e poi ricominciò. «Che dovessi io attraversare la terra? Sarebbe bella se io uscissi fra le genti che camminano col capo in giù. Credo che si chiamino le antipatie». Questa volta fu contenta che non ci fosse niuno che l'ascoltasse, perché quel nome non le suonava giusto all'orecchio. Ma domanderò loro che nome abbia quel paese. Di grazia, signora, è questa la Nuova Zelanda o l'Australia? E cercò di fare una riverenza mentre parlava. Figuratevi, fare riverenza mentre si casca giù a precipizio. Dite, potreste farla voi? Ma se farò una tale domanda mi crederanno una sciocca. No, non lo farò. Forse troverò scritto il nome in qualche parte con laggiù. E giù, e giù, e giù. Non avendo nulla da fare, Alice ricominciò a cinguettare. Dina mi cercherà stanotte. Dina era il nome della gatta. Spero che si rammenteranno di darle il suo piattino di latte quando prenderanno il tè. Cara Dina mia, vorrei che tu fossi meco qua giù. Non vi son sorci nell'aria, ma sai, tu potresti afferrare una nottola che è simile al sorcio. Ma che? I gatti mangiano le nottole? E qui Alice cominciò a sonniferare e fra il sonno e la veglia continuò a ruminare fra denti. I gatti mangiano le nottole, i gatti mangiano le nottole e talvolta le nottole mangiano i gatti? Perché vedete, non potendo rispondere a nessuna delle due questioni, non le importava se invertiva il senso di esse. Sonnecchiava di già e proprio allora cominciava a sognare che se ne andava a braccetto con Dina e che le diceva con faccia austera: «Dina, dimmi la verità, hai tu mai mangiato una nottola?» Quando tonfete cascò d'un subito sopra un mucchio di ramicelli e di foglie secche e la caduta finì. Alice non si fece male e saltò in piedi lesta e pronta. Guardò in alto, era buio affatto. Davanti a lei sfilava un lungo corridoio percorso dal coniglio bianco che era sempre in vista. Non c'era tempo da perdere. Alice, come se avesse le ali, gli corse appresso e sentì che esclamava mentre svoltava a una cantonata: «Giura mio, gli è tardi davvero!» Stava lì per raggiungerlo, ma appena passò la cantonata, il coniglio non si vide più. Ed ella si trovò in una sala lunga e bassa, illuminata da una fila di lampade che pendevano dalla volta. V'erano porte tutte intorno alla sala, ma erano tutte serrate, e dopo che Alice andò su e giù provando tutti gli usci per vedere se fosse possibile d'aprirne qualcheduno, ma sempre inutilmente, si mise a camminare mestamente nel mezzo della sala, pensando come mai avrebbe potuto riuscirne fuori. Tutto a un tratto capitò vicino a un piccolo tavolino di cristallo solido e sorretto da tre piedi. Non c'era altro su d'esso che una chiavettina d'oro. Or la prima idea che ebbe Alice fu che quella potesse aprire uno degli usci della sala. E provò, ma, oimè, o le toppe erano troppo grandi o la chiavettina era troppo piccola. Ma comunque fosse, non potette aprirne alcuno. Ciò non di meno, avendo fatto un secondo giro nella sala, capitò davanti a una cortina bassa che non aveva osservata prima, e dietro ad essa v'era un piccolo uscio, alto 15 pollici o giù di lì. Provò la chiavettina d'oro se andasse alla toppa e con molta allegrezza vide che c'entrava per l'appuntino. Alice aprì l'uscio e vide che dava a un piccolo corridoio, largo quanto una buca da topi. Si inginocchiò e vide al di là del corridoio il più bel giardino del mondo. Oh, quanto desiderò d'uscir fuori da quella sala buia per correre su quei prati di fiori risplendenti e lungo le chiare e fresche acque delle fontane, ma non le era dato neppure di cacciare il capo fuori della buca. E ancorché il mio capo potesse passarvi, pensò la povera Alice, mi servirebbe poco senza farci passare anche le spalle. Oh, quanto bramerei riserrarmi come un telescopio. Credo che potrei farlo se sapessi soltanto come cominciare. Poiché, essendo ultimamente accadute tante cose straordinarie, Alice aveva cominciato a persuadersi che poche fossero le cose veramente impossibili. Era proprio tempo perso star lì piantata davanti all'usciolino. Perciò Alice ritornò verso la tavola con una mezza speranza di potervi trovare sopra un'altra chiave o almeno un libro il quale insegnasse la gente a rinserrarsi come un cannocchiale. Questa volta vi trovò un'ampolla e certo non c'era prima, disse Alice. E aveva attaccato al collo un cartello sul quale a lettere di scatola era magnificamente scritta questa parola: «Bevi». «Va benissimo il dire bevi». Ma Alice, che era una ragazzina prudente, lì per lì non volle bere. «No, voglio prima vedere se c'è scritto veleno, poiché ella aveva letto molte belle novellette sopra ragazzi che erano stati abbruciati e mangiati vivi da bestie feroci e cose similianti, e tutto ciò perché non vollero ricordarsi della prudenza che era stata loro insegnata in casi simili. Come per esempio, non maneggiare le molle infuocate perché scottano. Se col coltello ti fai sul dito un taglio molto profondo, certo non uscirà sangue. Ed ella non aveva dimenticato quell'altro avvertimento. Se tu bevi smodatamente d'una bottiglia che ha l'iscrizione veleno, presto o tardi ti farà male. Ciò non di meno quell'ampolla non aveva l'iscrizione veleno. Perciò Alice si avventurò di assaggiarne il contenuto. E trovandolo delizioso, di fatto aveva un sapore misto di torta di ciliegie, di crema d'ananasso, di tacchino arrosto, di torrone e di crostini burrati. Lo vuotò tutto d'un fiato. «Che curiosa sensazione!» disse Alice. «Mi vo ristringendo come un cannocchiale!» Ed era proprio così. Non aveva più che 10 pollici d'altezza e il suo bel visino si illuminò di gioia, pensando che finalmente era giunta la giusta statura per traversare l'usciolino ed entrare nel bel giardino. Prima aspettò qualche minuto per vedere se rimpicciolisse di più. È vero che provò una certa ansietà su quel mutamento, perché sapete, potrei rimpicciolirmi tanto da sparire affatto come una candela, disse Alice. A chi assomiglierei allora? E cercò di farsi un'idea dell'apparenza della fiamma di una candela smorzata, poiché non poteva nemmeno ricordarsi se mai avesse veduto una cosa simile. E scorsero alcuni momenti, e veggendo che nulla di nuovo le accadeva, si accinse ad entrare nel giardino. Ma, povera Alice, quando fu all'uscio si accorse che aveva dimenticato la chiavettina d'oro, e quando si rivolse verso la tavola dove l'aveva lasciata, vide che non poteva più arrivarla. Essa la vedeva chiaramente attraverso del cristallo e fece ogni sforzo possibile per arrampicarsi ad uno dei piedi della tavola e montar su, ma gli era troppo sdrucciolevole e dopo essersi affaticata invano per vincere quella difficoltà, la poverina si sedette e pianse. «Via, che vale abbandonarsi al pianto?» disse Alice a se stessa. «Io ti consiglio invece, o signorina, di smettere subito quel pennucolare». Generalmente ella dava a se stessa dei buoni consigli, benché raramente poi li seguisse. E talvolta si rimproverava tanto severamente che le lacrime le scorrevano per le gote e si lamentò che una volta stava lì lì per schiaffeggiarsi perché si era truffata in una partita di croquet che giocava contro se medesima, che questa straordinaria bimba trovava piacere a fingersi di essere due persone. «Ma ora è inutile voler credermi due persone», pensò la povera Alice. «Me ne resta appena tanto per comporne una». Ed ecco, le cadde sott'occhio una cassettina di cristallo che giaceva sotto la tavola. L'aprì e vi trovò dentro un piccolo pasticcino sul quale, con un'uva di Corinto, era scritto in belli caratteri «Mangia». «Bene, lo mangerò», disse Alice, «e se mi farà crescere di molto, giungerò ad afferrare la chiavettina e se mi farà rimpicciolire, mi striscerò sotto l'uscio. Così, in un modo o in un altro, entrerò nel giardino e poi sarà quel che sarà». Ne mangiò un bocconcino e, mettendosi la mano sul capo, sclamò ansiosamente «In qual modo? In qual modo?» per vedere in qual modo si mutava, ma restò molto sorpresa nel vedersi della stessa statura. Certo, così accade a tutti coloro che mangiano pasticci, ma Alice si era tanto abituata a vedere cose straordinarie che le sembrava una cosa stupida e sciocca quella di crescere come si cresce generalmente. E tornò alla bisogna e in pochi istanti ingoiò tutto il pasticcio. Fine del capitolo 1.